fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. E ci siamo, diretta radio del sabato sera in compagnia delle ragazze che vengono da... Vicenza! Da Vicenza, e come avete detto prima, Vicenza... Mania Gatti! Non intendevo questo. Perché non si può fare senza... Brava, esatto! Ma però, visto che avete introdotto l'argomento, riuscite a svelare all'intera Italia cosa... Se è vero o no, questa, cioè, cosa vuol dire questa cosa qua, di questo detto? Era vero. Era vero. Ah, nell'antichità era vero, ma perché... È ancora vero, dai. Perché con la guerra non avevi niente da mangiare, allora... Perché è proprio Vicenza? Cioè, perché c'erano tanti gatti? No. Forse sì. I veronesi tutti matti, ah. I vicentini maniagatti. Perché? Perché nei tempi, nell'antichità, adesso non ce n'è più neanche uno matto a Verona. No, mi sa che quello è rimasto, magari non ci sono più gatti a Vicenza. E veneziani, gran signori. Gli è venuto un altro jingle alla vostra amica? Sì. Ne avete altri o... No, basta. Ma presentiamoci, partiamo da te, come ti chiami? Giulia. Stefania. Jenny. Luisa. Ed Elisa. Ragazzi, Elisa, l'ultima solo nella presentazione, ma la prima della serata, perché Elisa, ditelo assieme, sì? Sposa! Lo sapevi tu, Elisa? Hai sentito dire. Fantastica, Elisa è entrata spontaneamente in radio, tra l'altro, proprio. Sì, era lì che diceva: oh, voglio entrare, fammi l'intervista, non vedo l'ora, così cosa. Ah, giusto? Sì. Fantastico. Merito delle amiche che ti hanno trascinato. Grazie alle amiche, ovvio. Una ci sono. Ma ragazzi, un aneddoto della serata, giusto, mi viene in mente. È vero che Elisa la torta l'ha mangiata, ma in maniera un po' particolare? Cioè, mi sembra di ricordare. Elisa, raccontacelo tu, cosa ti è successo a un certo punto della serata? Non ricordo di avere la torta un po' spalmata dappertutto. È vero, no, però, allora, gli amici da casa non ti vedono, però... Elisa, me la descrivete voi, che magari io poi... com'è Elisa? Alta. Perfetto, è proprio... Mora, occhi marroni. Ecco, è proprio lei. Ragazzi, ecco, uguale identica. È proprio lei. Sì. Allora, è piccolina, biondina, graziosina, sì. Gentilina, dolcina. Però le è successo giusto che... chi è che c'era? C'eravate tutte in quel momento? Sì. Chi è che la racconta anche così... Praticamente è arrivato un tipo che con la col piatto di torta che aveva in mano l'Elisa e gliel'ha praticamente spiaccicata in faccia. Ah, perfetto. E lei ovviamente si è vendicata. E brava, e volevo arrivare lì io. Che cosa ha fatto? Ovviamente gliel'ha spalmata tutta in faccia. Di terra. È vero. Quando, cioè, perché io non me l'aspettavo che Elisa avesse questa reazione. Perché appunto piccolina, dolcina, carina, tutta timidina, anche un po' timida, no Elisa? Sì, ma mi difendo. Però ti sai difendere, infatti. Difendo. Abbiamo visto, vero ragazze? Sì. Avete qualche altra caratteristica? Sì. Sì. Un aneddoto della giornata. Vai. Allora, questa mattina era vestita da Pizzetta. Siamo entrati in gelateria per mangiare un gelato e l'hanno scambiata per la mascotte della gelateria. No! Bellissima. Se io perdo il lavoro so già dove andare. A fare della gelateria di Desenzano. Gran bellissima questa. Ma perché non l'avete portata vestita a buffetta stasera? Poteva bastare. Avevo già dato. Sì, perché stamattina alle 11, dai. Ah, è da stamattina alle 11 che siete in giro? Sì, abbiamo fatto fare una caccia al tesoro. Una caccia al tesoro? Sì. Ma dai, che bella idea. Sì. Ma per Desenzano? No, per i nostri posti. Ah, quindi la mattina è iniziata così. Caccia, tu non spegni niente, ovviamente. No. Ti sono venute a prendere? No, troppo facile. L'avete fatta uscire vestita da buffetta sola? No, ma vestita no, buffetta? No, un passo alla volta. Ah, quindi nessuno è andato a prenderla? No. È arrivato un messaggio. Che lei non sapeva niente? No, niente. Andate avanti, dai, che ho racconto. Vai tu, Giulia. È arrivato un messaggio dove c'era un elenco di cose che doveva preparare per mettersi in valigia, tra cui anche un piede a patate, una frusta, una carta igienica, il caschetto da montagna e tante cose. La prima tappa doveva andare in un bar, dunque alle 11 del mattino ha bevuto un caffè con Retto Prugna. Non ci credo. Doveva immortalarsi in ogni punto, dunque dopo un selfie. Ma tutto da sola? Tutto da sola. E in ogni posto gli davano il biglietto per il posto successivo. No. Si è trasferita in tabaccheria, ha preso un Gratta e Vinci, Non ho vinto niente. Poi, vabbè, questa la lascio raccontare alla sposa, perché la tappa successiva era in farmacia. Ma a prendere cosa? Ta-tra-da. Ta-tra-da. Delle cose che servono per l'intimità. Molto fine. Sì, lei è così, tutta. Tipo? Dei palloncini gonfiabili. No. A tutti i gusti. Ma l'ha scambiata per una bambina che voleva palloncino praticamente in farmacia? No, ma era tutto organizzato, sapevano tutto e quindi l'hanno tenuta, il farmacista l'ha tenuta là spiegandogli tutti i dettagli, tutti i dettagli, tutti i vari che non si gonfia, ma non bisogna soffiarci dentro, ecco. E poi come ultima tappa in un negozio di abbigliamento dove si è trovato nel camerino l'abbigliamento da puffetta. No. E alla fine alle 12:30 doveva uscire da questo negozio vestita da puffetta e ci ha trovato in un bar. Noi tutte le amiche eravamo questa mattina e aspettavamo. Cioè non ci credo, lei è andata in tutto giro da sola vestita da puffetta. E il monopattino. Ho già dato. Ma chi sei? Ecco perché non voleva entrare in radio. È distrutta dalle cose che le avete fatto fare. Però sì. Spettacolare. Bello. Spettacolare. Divertente. Sono state brave. Ci odiava. Ma incredibile. Ma anche lei è stata bravissima. Cioè, è vestirsi da puffetta. Però. E quindi e tu dicevi, ma quando ti vesti da puffetta? Hai detto, ma adesso, cioè, cosa sta succedendo? No, ho detto, adesso non esco da qua. Cioè, ma che. Si è che presa bello. Un caffè, ne ha bevuti tre la mattina. Era un po' corretti prugna. Tutti era corretti un po' prugna, agitata. Tra l'altro. Ma com'è il caffè corretto prugna? Ma non no, mai... era prugna corretto caffè. Ah, perfetto. E dopo le hai viste, le insultate subito? Esatto, sì. Sì. Ah, proprio così. Il saluto è stato un insulto. Insulto. E dopo però hai dovuto sottostare ai loro voleri. Sì. Hai dovuto firmare il giuramento e stare alle loro regole ed eccoci qua. Aspetta, manca un pezzo, da mezzogiorno e mezzo. Manca un pezzo perché siamo arrivati a Desenzano. Abbiamo trovato una compagnia di Nadio al celibato che ci hanno invitato all'aperitivo in barca e siamo andati fino a Sirmione in barca. Aperitivo in barca con musica e balli e tramonto. Spettacolo, che botta di fortuna incredibile, ragazze. Cioè, anche per le amiche è esagerato. Esatto. Perché voi andavate a Desenzano, dopo stavate lì, come andava, giusto? E invece ho avuto una botta di fortuna pazzesca. E sono qui anche loro, la alla compagnia della barca. E sono qui. Ringraziamo ancora. Ringraziamoli ufficialmente, i ragazzi, di dove? Di Malo. Di Malo, sì. Di Malo, grande, Malo. Grande. Lo sposo Valentino. Grazie. Grazie. Abbiamo il mister David fuori che sta facendo... Ah, esatto. Esatto, giustamente ci chiedono dalla regia il vostro famosissimo verso, perché stasera vi siete trasformate in area nel foto 7 e vi siete trasformate in cosa? In maiale. Ma tutte assieme me lo fate? Uno, due, tre. Possiamo dirlo? Le maiale di qual è il paese? Valdagno. Il maiale di Valdagno. Tanto così ci conoscono okay. Tutti. Mi piacerebbe che ognuna si presentasse in maniera maiala. Tipo, no. Com'è il tuo nome? No, poi mi fai il verso. Come ti chiami? Giulia. Giulia? Fai il verso. Giulia. Questo è un maiale feroce. Arrabbiato. È pericolosissimo. Come... Poi abbiamo? Stefania. Questo maiale che dorme. Jenny. No, questo è sempre stato il piede da solo. Cioè, si è fatto male questo maiale. Attenzione, la più maiala mi sembra del gruppo, nel senso la tanto attesa, vedo che c'è. Ecco, abbiamo Luisa. Che verso era? E gran finale, signori e signori, per concludere in bellezza la serata abbiamo Elisa. Si è aspirata al microfono. Sta morendo il maiale. Ok, fantastica. E tutte insieme formate le maiale di Valdagno. Valdagno. Ciao ragazze, grandissime, fatemi un applauso. Bravo.